Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presente, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, via qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene dopo il set. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma che? Ah no? Ma che? Ah? Calla, guardavamo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata? Sochi che? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi do diet my Xbox media. E basta con tutto sto casino. Ma la gente qua deve dormire. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. E con quale solennità vi annuncio il ritorno dopo una settimana precisa di OGM Soch Media Edition. E questa sera sono qui pronti a farmi da sodali in una puntata un po' rimaneggiata i compagni di una vita di missioni per farvi compagnia a nostra volta. Inizio dal nostro Marco Gualdi. Ciao, ma come sarebbe a dire che abbiamo fatto una settimana di buco? È passata una settimana precisa dall'altra puntata. Ok, no, perché avevo capito che avevo... Perché se no mi domandavo con chi ho parlato la settimana scorsa. Vabbè, con una delle tue tante personalità multiple, come ci potrebbe spiegare il nostro Francesco, Lobby Frontali di Muro. Meglio personalità multiple che sclerosi multiple, che è una cosa bruttissima. Mamma mia. Ed è peggio ancora la SLA della sclerosi multipla, però basta parlare di malattie che l'età insomma avanza, illudiamoci di essere ancora giovani. Allora, ben trovati ragazzi, che mi dite? Niente. Un maronno, già vedo anno troppo. Che te dobbiamo dire? Dai, partiamo subito che cose. Da Twitter, cip. Che è successo? Allora, un momento, intanto devo fare un annuncio di. Come avrete capito, oggi latitano un paio delle voci di OGM. Non c'è il nostro Puccio che c'ha la febbre, quindi lo salutiamo. Speriamo si rimetta in forma. E non c'è il nostro Simone Pizzi per altri impegni. Per i cazzi sua, esatto, semplicemente. Senza andare a scendere in dettagli che non abbiamo, ma non importa, ci ha informato che oggi non ci sarebbe stato, ma non è un problema perché OGM è resiliente, quindi eccoci qua. Una cosa dalla però devo dire, resiliente dalla pandemia. Sì. Prima non esisteva sta parola, poi dalla pandemia tutti resilienti, resilienza. Io che l'ho sentita la prima volta nel 2016 io. Prima non esisteva. Forse l'hanno inventato qui a Monterotondo questa parola. Guarda, non lo so. È una parola aretina, dici tu? No, aretina è retina. Aretina è Arezzo. Scusate, perché ad Arezzo ultimamente succedono un sacco di cose strane. Non so se avete letto. Gente che si lancia col trattore nella proprietà del vicino, che gli spara dalla finestra e lo ammazza. Tutte cosine tranquille. Insomma, no, volevo però dire questa cosa. Settimana scorsa abbiamo lanciato un contest e siamo veramente demoralizzati dal fatto che nessuno ha indovinato. Dovevate indovinare qual era l'elemento che era stato cambiato nella versione numero 3 della nostra sigla. Visto che nessuno si è aggiudicato la felpa fluorescente che avevamo messo in palio, peggio per voi, sappiate che oggi c'è stata addirittura la versione 4 della sigla. Però non ve meritate, le perle ai porci proprio. Mi pare sembrava prima. Ma il nostro sapiente sound engineer Simone Pizzi ogni volta fa qualche piccolo cambio. Vabbè ragazzi, solo lui però va bene. Il segreto è come il segreto della ricetta della Coca-Cola, non si può rivelare. Segreto. Vabbè, comunque io direi così. Allora, abbiamo come sempre una scaletta pregna di contenuti. Chi si prende la briga di iniziare? Io non voglio fare niente. Vabbè, ciao. Ciao. Volevo però. Vabbè, dai, la butto lì io, poi magari mi venite appresso. Iniziamo con una cosa, la tocchiamo piano. Iniziamo da Rita Dalla Chiesa, non so se avete letto. Ultimamente la patroana che sta, basta, cioè si lamenta che non gli piace, hanno fatto troppe poche fiction su suo padre, perché mo ce n'è un'altra. Guarda, quello rompe le palle in maniera veramente immantinente. Il discorso è che nel frattempo io penso che lei si sia confusa. Le devono aver fatto pensare che il Parlamento è Twitter o viceversa, perché ogni volta che c'è qualcosa a Roma in particolar modo che non va, lei inveisce su Twitter dicendo che bisognerebbe fare qualcosa. Ma sei nel posto giusto per farla tu qualcosa? Non te l'hanno spiegato? Solo che oggi è successa questa cosa particolarmente imbarazzante, perché ha ripostato il contenuto di un'altra utente, Michela Campus, su Twitter, leggo, l'ha rilanciato con solennità. C'era questa foto in cui questa persona si lamentava dell'enorme mole di spazzatura si chiama Cristina Molendi, quella che ha rilanciato Dalla Chiesa, che mostrava questa foto di questo enorme cumulo di spazzatura, e ovviamente subito additando e dicendo che questo è il fallimento del PD Network grillinizzato dal Movimento 5 Stelle a Roma, e che bisogna cancellare per sempre questi due partiti, perché Roma è affogata dai rifiuti, dice, tra un po' ci sarà anche l'emergenza sanitaria. E ovviamente Rita Dalla Chiesa, indignata, rilancia altrettanto indignata, fino a quando non gli fanno notare che è stata utilizzata una foto che era stata scattata in via Malta a Catania l'8 novembre del 2021. Come da... Solo che poi la Dalla Chiesa ha rosicato, allora ha cominciato a cercare qualunque altra foto di Roma di cassonetti pieni. E allora questa. Ragazzi, guarda, veramente si fa fatica ad averci a che fare con certa gente. Quindi io la notizia ve l'ho data, commentatela voi. Ma perché commentarla? Perché seguire ancora dalla Chiesa? Ma chi la segue? Però io purtroppo abbiamo quest'onere istituzionale. Anzi, io mi vergogno che... Tu dici che praticamente è come fare le scoregge, quindi non puoi trattenerti. Ho capito. Parlare dalla Chiesa è come scoreggiare. Mi piace. Sì, voglio dire. Ci sta. A parte quello, ma poi a me quello che... Parla come nella... Puoi far finta di niente, però sotto si sente sempre, insomma. Io si sente sempre. No, il problema è che ogni mattina di lunedì io mi devo mettere lì a cercare cose da dire la sera, e devo sempre fare le ricerche più nefaste e nefande, che io spero sempre che l'algoritmo non se le ricorda, sennò poi me le comincerà a proporre all'infinito. Mi fa un po' schifo. Però... No, io invece spero che se le ricordi, però non se le ricordi. Beh, il problema è il contrario, che da un po' di tempo mi sta accastrando tutte le notizie, quelle bomba, quelle fine del mondo, queste cose qui che ogni tanto scendono fuori, non me le fa più vedere. Quindi, perché Elon Musk ha deciso che non devi più godere delle tue frequentazioni abituali, l'algoritmo ti farà vedere solo quello di cui non ti frega un cazzo. Le cose sono due: o il giornalismo italiano, specialmente quello online, è diventato serio e competente, e che fa con dei titolisti e con degli articolisti che sono probabilmente professionisti e tuttonisti, oppure c'è qualche cosa che non va nell'algoritmo, secondo voi? Spegnono, ma accendono luce a caso mentre fuori dal mio controllo, scusate, non ci ho capito un cazzo. No, nemmeno io, non ci voglio proprio capire, perché insomma è lunedì sera, sono stanco. Vabbè, dai, che si dice invece dai vostri canali? Poi dopo... Ma niente, volevo fare una bella cosa. Volevo praticamente mettermi in tre e far impazzire chat GPT 3. Però is at capacity right now. Praticamente c'hai i server sfonnati e... È stanco. Oh. Lascia puttana. Pensa che io ho già in mente una cosa, anche, anzi tu preparala. Io preparo tutte ho in mente queste idee, secondo me lo mettiamo, il botto lo mettiamo in difficoltà. Allora, io vorrei una piccola, come si chiama, discorso, una elucubrazione su... Vediamo un po', ecco, il soggetto quale potrebbe essere? Un soggetto qualsiasi, suggerirne uno anche stupido, intelligente, qualcosa di... Ah, facciamo così, l'importanza di Pornhub nella vita degli italiani e del mondo e la sua praticamente importanza per la pace nel mondo, io direi così, però un discorso fatto da Fusaro. Mamma mia! Il turbo capitalista, le turboseghe, perché le turbo fregne, capito, queste cose qua. Fai questo discorso, l'importanza di Pornhub per la pace del mondo, fatto da Diego Fusaro. Vediamo che esce fuori, perché io sono curioso. Mi piacerebbe farlo pure a me, sai. Vediamo, dai, appena si riprende il botto. Guarda, se il bot non si sta riprendendo è perché forse qualcuno gli ha già fatto questa domanda. Potrebbe anche essere vero, ma io ne dubito. Secondo me il mega computer a un certo punto ci chiamerà nella sala del verdetto e ci dirà semplicemente 42. Però vabbè, Marco, dici. Una notizia che è un po' vecchia, però giusto perché non l'avevamo letta prima. Ma noi basta non dirlo che è vecchia, chi vuoi che se ne accorge. Sì, no, perché questa forse ve ne accorgete. Allora, vediamo da dove viene. Da passionetecnologia.it, grandissimo sito. Amazon, dal 31 dicembre 2023 il servizio chiude i battenti, già al lavoro per togliere l'app da Google. Capito? Cioè, siete preoccupati? Che sta roba, preoccupatissimo, preoccupatissimi. Paurissima proprio. Da Libero Tecnologia, questo. Ah, beh. Mai visti sulla Terra, questi organismi misteriosi stanno ossessionando gli scienziati. Mamma mia. Però a questo punto ci devi dire quali sono. Dei funghi de merda. Ma per le tagliatelle? No, non lo so, sarebbe da provare però. Google, la decisione è drastica, arriva la chiusura, ecco perché. Questo tratto sempre da Libero? Passionetecnologia.it è sempre lo stesso, vedi? Perché c'hanno sti titoli che non sono assolutamente d'effetto. Vediamo se ce n'ho altre, perché sono un po'... Ah, ecco qua. Da Libero Tecnologia, sempre quelle poi sono. Hanno trovato qualcosa sul fondo dell'oceano e ora cambia tutto. Ora cambia tutto. Ho sentito che è cambiato? No. Sto ancora percependo il cambiamento in me. Esatto. Il cambiamento in player.it, che non so cosa sia. Il nuovo Google Maps. Non useremo più Google Maps. Le mappe cambiano vestito. Cioè, ma le usiamo o non le usiamo? Non si capisce molto questo. Forse non si usa più perché le mappe cambiano vestito. Google, due funzioni pazzesche, attivandolo crollano i consumi. Che pathos. Pathos da cellulari.it, anche questo grande sito che è ricco di chicche e di gioie. Barbara Palombelli, il divorzio tra virgolette arriva così, è la fine di tutto. È finito, ragazzi. No, aspetta, adesso no, questo però lo vogliamo sapere. La Palombelli ha lasciato il rutello? No, non so, è un divorzio. Cioè, da diretta.it che ci suggerisce anche: addio Sofia Loren, non resta che aspettare, non sempre possibile più nulla. Non resta che aspettare che muore, ma potrebbe metterci degli anni. Non resta che aspettare in generale, che si faccia la pipì addosso, che bestemmi, no, però bisogna aspettare, perché sempre linea diretta appunto vaffanculo, cioè una bellissimo sito. Player.it è gettonatissimo, le vostre TV non funzioneranno più tra due giorni, ecco cosa fare. Non so, la mia funziona ancora. Vabbè, ho capito, la tua è nuova de pacca. Qui dice le vostre televisioni. Sì, c'ha ragione pure tu. Mica quelle in generale. Sì. Mamma mia, linea diretta 24.it sempre. Pippo Baudo, l'addio alla fine è arrivato. Non sembra esserci più nulla da fare per lui. Come per Sofia Loren, stessa malattia. Forse Sofia Loren sta aspettando che muore Pippo Baudo, no? E viceversa. Diventa una cosa causale, cioè uno è legato all'altro praticamente, alla morte di uno. Tipo Voldemort. Vabbè ragazzi, ricordiamoci che Pippo Baudo ne ha seppelliti parecchi. Ogni volta che andava a un funerale c'aveva sempre la faccia contrita di quello che aveva paura di essere prossimo. Ma cellulari.it, vi dico anche questa: la fine per Google Maps, perché Google Maps è finito. Nuovo arrivato fa già impazzire gli utenti, lo vogliono tutti. Chissà cosa sarà mai. Io posso capire, che ne so, 10-15 anni fa ste cose, ma davvero siamo arrivati a... Alla fine poi chi li clicca ste robe? Ma sai qual è il fatto, Francesco? I vecchi. Io neanche li clicco perché non ce l'ho bisogno, basta vedere di te. Senti questa è tosta, questa sta sul pezzo. News by si chiama così, News by Avatar 2. La truffa che sta devastando gli spettatori. Sono cascati in tanti in Italia. Quelli che hanno scaricato dal torrent e ci hanno beccato il pornazzo, hanno beccato chi, Avatar? Ma non è una truffa sul caso, è tutto sommato, cioè, alla fine. Ah, infatti. Forse chi è andato a vederlo? Ma non lo so, non si sa. Ma quindi tu non clicchi mai? Scusa Marco, spiegami questa cosa. Tu leggi tutti questi titoli sensazionalistici, poi non sei mai curioso al punto di cliccare? Sì, però poi non clicco. Però per esempio adesso per motivi pienamente antropologici, non per la scienza, dico, potresti cliccare e dirci qual è la truffa di Avatar? No, ho fatto lo screenshot per impedirmi di cliccare, quindi... Cioè, no, lo so che prima o poi cedo, quindi faccio lo screen e butto via la notizia, cioè, per sopravvivenza. Cellulari.it, WhatsApp, attenzione, se vi arrivano questi contenuti dovete bloccarli immediatamente. Così. Questi contenuti che non sapremo mai, sempre da player.it, che sono dei siti veramente su cui io non ho mai pigiato nulla, però mi arrivano. Hanno le ore contate, questo sta scritto sullo screen che c'è scritto: un nuovo metodo rivoluzionario permette di curare i tumori, la svolta sorprendente. Qui andiamo anche sul medico, andiamo anche sul medico grande, insomma. Motori News, il trucco della molla lo usano in molti, con 5 euro puoi farti il pieno. Bello. Beh, se c'hai un motorino. Mi pentisco di non aver cliccato in questo caso, perché mi sarei potuto fare il pieno con 5 euro. Allora, invece c'è questa notizia che arriva da starfacts.com, è un sito inglese. Starfacts. Lo traduco in tempo reale. Chi vincerebbe in questa lotta? Sauron's Ring versus Sauron's, cioè l'anello di Sauron contro il re dell'armata dei morti, il Night King dell'armata dei morti. Non lo so, cioè, è una bella quasi quasi ci avrei cliccato. Chi avrebbe vinto? Cioè l'anello di Sauron oppure il re della notte? Non conosco che cos'è il re della notte, quindi che te dico? Army of the Dead. No, il re della notte, Night King, Game of Thrones, un ghiacciolone. Il ghiacciolone finale. L'anello di Sauron è il re della notte, cioè l'anello di Sauron. Beh, oddio, conosco potrei dire che il potere dell'unico anello è ineguagliato, però non lo so, È unico, se no non sarebbe unico. C'ha tutti gli anellini del cazzo, dei re degli umani, degli elfri, dei Peter Dinklage. Vabbè, ma come perché... si dice Peter Dinklage? Sì, nano. Ah, ecco. Nano. No, no, ho anche due notizie che potremmo commentare. Basta. Vabbè, basta. Marco, non ti spara tutto adesso, perché sennò poi alle 21:30 ce ne andiamo a dormire. Le leggiamo dopo, perché non sono titoli, sono titoli, ma in realtà sono notizie di cui mi piacerebbe parlare. Bene. Ma hai preparato anche le recensioni? Hai anche delle recensioni? Qualcuna ce l'ho. Bene, bene. Francesco, tu nel frattempo col bot come va? Il bot non va, quindi sto recuperando coi soliti complottari, novaxari, io aprari e ovviamente il focus è su quello che sta succedendo in Brasile, che hanno fatto la revocazione 1-1 di quello che è successo a Capitol Hill. A Capitol Hill, bravo. È solo che stavolta ci sono riusciti un po' meglio, sembra. Nel frattempo vi faccio assaggiare un po' di morte. Ah sì, ma dai, tutto passa. Allora, dove vediamo? Tartare, Italia, Terre Infinite, questi terrapiattisti? Oppure vediamo Davide Zedda, Cesare Sacchetti, che è sempre un must. Chi vediamo? Ugo Fuoco? Chi non lo so, Cesare Sacchetti mi sembra quasi un filosofo, vedi un po'. Sacchetti, Little Sex, come chiama Bush. Aspettate un attimo, come mi sfuggi, perché c'è un problema. Io ho la sindrome del mouse fantasma, che 2-3 giorni fa praticamente non mi riceve più il mouse. Ho provato a smontarlo e tutto, quindi sono in attesa del nuovo mouse, quindi sto usando il touchpad, solo che il touchpad è un po' difettoso, che ogni tanto praticamente il tasto sinistro è come se percepisse che rimanesse premuto, e quindi mi trascina tutte le cose a destra e a sinistra. Ecco, si è sbloccato. E niente, Cesare Sacchetti è abbastanza un must, ovviamente. Qua, però scrive troppo, cioè questo si vede che non c'è un cazzo da fa. Ovviamente, il giorno in cui passeremo dalla lira agli euro, Bolsonaro, c'è l'ultima cosa che Bolsonaro pare che è di nuovo c'ha quel problema che lui regolarmente si riempie di merda. E deve andare in ospedale, no, davvero, che non riesce a cagare, tipo ha problemi addominali e c'ha troppa cacca e deve andare in ospedale, mo tipo in ospedale negli Stati Uniti, una cosa del genere. Quindi sì, infatti pare che si sia ricoverato sul consiglio del medico personale Zangrillaio. È stato ricoverato in un ospedale degli Stati Uniti per dolori addominali, quindi cacca, pieno di cacca. No, quella è appendicite, ragazzi. Scusate, ovviamente è assolutamente un caso che il tentativo di golpe in Brasile ci sia stato mentre lui era in Florida, no? Verificato ieri è certamente singolare. Ma volevo far notare un fatto: Bolsonaro sono anni che fa avanti e indietro dagli ospedali perché fu accoltellato 5 anni fa da uno squilibrato che poi l'ineffabile magistratura brasiliana lasciò libero. Sempre sta magistratura rossi, sti toghe rossi. Bolsonaro ha messo in gioco la sua vita più di servire il Brasile, e la dimostrazione che è lui la vera minaccia per lo Stato profondo viene dal fatto che questo ambiente ha cercato di uccidere mentre accoglieva con tutti gli onori di Lola, coloro della falsa controinformazione che danno del vigliacco a Bolsonaro dimostra ancora una volta che tutta la loro malafede e tutta la loro contiguità con il potere del globalismo. Cioè questo praticamente, questo è un emule di coso di Fusaro, comunque, cioè, lo sento che cerca di Fusaro. È un fan, dici? Secondo me sì, cioè, comunque lo sente dentro. Poi i commenti: sì, ma questo va negli Stati Uniti che lo vogliono far fuori a farsi operare. Ma mi sarei aspettato che andasse a Mosca, sì, perché sai com'è, è facile ora andare un attimo dal Brasile a Mosca, cioè. No, ma poi insomma la medicina è l'unico a dirlo, food poisoning. Sì, ma quello che succede, qualcosa a Bolsonaro adesso, già c'è casino in Brasile, sta ad Orlando, basta vedere il suo ultimo post Twitter, eccetera eccetera, magari ha avuto un appoggio sicuro alla protezione di Trump, non può accadergli nulla. Beh. Adesso tutto chiaro. Del 2019 cioè, bello quando fanno fact checking stesso loro, veramente. Onore a quest'uomo, nel vero senso della parola, grande leader, ha solamente bruciato uno stato in 5 anni, ha sterminato le minoranze, ha devo stare tutta la foresta amazzonica, cioè no, grande leader, grande, grande uomo, voleva far curare tutti con la, l'idrossiclorichina, non voleva fare, no, grandissimo uomo proprio, cioè questo schifano pure, pure i piastrelle che dove cammina, questo lì è babbo. Cioè neanche l'esercito, uno pensava che ok è finito in Brasile perché mo l'esercito lo appoggia e tutti, no, pure l'esercito è andato lì a cagare il cazzo ad arrestare i capicazzi là, i manifestanti, cazzo sì. Però sono la polizia, i poliziotti si sono fatti i cazzi loro, come sbaglio? Sì, se facevano i selfie hanno fatto vedere, vabbè. No, ma lì, perché se ho capito bene, una parte dell'esercito ha impedito alla polizia di intervenire. Ci sono stati un po' di, insomma, di ambiguità, sì, però sono sempre roba strana. In Brasile sembrano alcuni aggiornamenti importanti sul Brasile, vengono da fonti militari sul posto, informazioni che alcuni, quasi tutti in malafede, stanno facendo girare sui militari che hanno consegnato i manifestanti alla polizia federale. È falso, stanno in fotografie. I militari hanno protetto i manifestanti dalla polizia federale. Adesso Lula e Alexandre de Moraes si giocheranno le loro ultime carte, facendo, perché diciamo, perché poi spesso dico anche loro sono i golpisti, hanno vinto delle elezioni, sono i golpisti, vabbè, levo su quella parte, cioè golpe, cioè un termine che ha un significato, cioè se quando tu fai qualcosa, prendono, scusami, è questo, quando tu fai qualcosa di sbagliato hai le golpe, sì, sei un golpista. È un golpista. No, ormai è diventato golpista quando succede qualcosa che è contrario a quello che voglio io, quindi è un golpe automaticamente. Colpa tua, colpa dei tre quarti della palazzina tua. E niente, se fu Giorgio Soros, Alexandre Ocasio-Cortez, una delle più famigerate esponenti del Partito Democratico Americano e protetta da Soros, chiede che Jair Bolsonaro sia estradato dagli Stati Uniti per essere perseguitato in Brasile. Ma avete sentito pure sta cosa che lui si supponeva che lui volesse essere tipo estradato in Italia, dove tipo c'è un paesino in Veneto dove gli ha dato la cittadinanza. Gli vogliono dare la cittadinanza onoraria. Hanno fatto fu, hanno fatto sì, chi è? Boh, no. Comunque, ragazzi, tra l'altro mi è venuto in mente, no, mentre parlavi del Brasile, citato la Ocasio-Cortez, mi è venuto in mente, ma visto che figurone di merda epico, ci sono volute tipo 18 votazioni per eleggere lo speaker della Camera, perché mamma tra mia, di loro i repubblicani non si mettevano d'accordo. Era una roba, cioè si poteva fare, che poi a un certo punto tipo c'è stato uno che tipo ha fatto Leroy Jenkins, una cosa del genere, tipo detto mentre annunciava l'ennesima persona che non sarebbe stata eletta. Cioè davvero pare che stiamo eleggendo rifumata neri, fumata tutto, fumata nera, fumata bianca, che davvero figure in merda, oddio. Che partita allo sfascio, mannaggia la puttana. Beh, che nazione, tu sei stato fin troppo buono. Che nazione lo sfascio? Sì, perché non è che. Che nazione, sì, sì. Diciamo che non è che nazione, un partito, sì, il problema. No, però la cosa più evidente è davvero, cioè, diciamo, un po' fa. I repubblicani, cioè un rester non è che sta mise meglio, però porca puttana. Ma leggiamo un'altra, dai, torniamo in Europa. Quindi in Francia, questo dei risveglio Q1776, ho visto questo e subito ho visto delle robe che mi hanno attirato, e secondo me è meritevole, non lo so. In Francia, Pierre de Gaulle, il nipote di Charles de Gaulle, ha osservato che gli Stati Uniti hanno tagliato l'Europa dalla Russia, perché l'Europa e la Russia potrebbero formare un forte blocco politico, economico e culturale. Come sempre la natura, Brigitte Macron, la moglie del presidente Emmanuel Macron, ha spinto affinché la cattedrale bruciata di Notre Dame fosse ricostruita a forma di fallo con sfere d'oro, secondo Roselyne Bachelot, l'ex ministro della cultura francese. Io sto leggendo come sta scrivendo qua, cioè non sono io stavolta che non so parlare. Brigitte Macron è in realtà un uomo ed Emmanuel era la sua prostituta escort adolescente, affermano fonti dell'intelligence francese. Vale la pena notare che un'altra moglie maschio travestita da un leader, Michelle Obama, ha assistito al rituale satanico che bruciava Notre Dame da una barca sulla sede, e qui ci sono dei link che forse apro. L'uso di travestiti e persone sposate contro travestiti nell'armadio come leader è semplicemente una parte del fatto che chiunque desideri salire al potere nell'Occidente, controllato da Satana, deve avere qualcosa su cui essere ricattato. Travestirsi e mantenerlo segreto è di solito l'ultimo dei crimini di cui un leader deve essere colpevole. Ad esempio, in Canada, il fratellastro del ministro del crimine, Justin Trudeau, Kyle Kemper, afferma che il WEF, controllato dai Rothschild, ha materiale compromettente su di lui che lo rende una pedina che segue sceneggiature scritte per lui solo dai signori satanici. È una buona scommessa, una cosa che viene ricattata e che ha ucciso il suo fratellastro Michel con condizione di diventare primo ministro. In ogni caso, il Regno Unito e la Storia hanno cacciato i satanisti, quindi non passerà molto tempo prima che il Canada e la Nuova Zelanda facciano lo stesso, dicono fonti dell'MI6. Siamo sicuri che l'aspirante ladro di elezioni satanista brasiliano Lula sia stato ricattato per qualcosa di molto peggio di Trudeau. Nel caso in cui dubiti che sia satanista, ecco una foto e con in mano una statua di Baphomet a Kasatan. E non c'è una foto, questa cosa bella. Mettono le fonti. Baphomet è grande. I patrioti brasiliani che hanno sequestrato gli edifici governativi hanno trovato un mucchio di giocattoli sessuali nell'ufficio presidenziale di Lula. Notiamo che tra l'altro ancora non si è rinsediata. Diciamolo. Notiamo che l'esercito si è portato e messa avanti. Notiamo che l'esercito della polizia brasiliana si stanno ora unendo al popolo in rivolta contro i leader controllati satanicamente. Ma è bellissimo come riescono a unire tutto in un modo, cioè, flawless proprio, cioè, è bellissimo. Mamma mia, è bellissimo tutta sta roba. Sarei poi il complotto Vaticano per costringere Papa Francesco a dimettersi. I conservatori lanciano un piano segreto per mettere il pontefice nel liberale sotto così tanto stress che si dimetterà, rivela il cardinale italiano. Un cardinale ha detto che la fazione conservatrice è pronta a muoversi contro il Papa comunista. Vabbè, va. Strage di Erdogan. Guarda, scusa Francesco. Che devo guardare? Fino a quando si è parlato di Papa comunista, gli stavo quasi credendo. Poi effettivamente è crollato tutto. Era quasi plausibile fino a Papa comunista. Infatti infatti non avevo ben capito che cosa volevi dire, Marco. È Papa comunista che proprio non ci si può credere. Tutto il resto sì, passa. Lì che è crollato tutta quanta la torre, insomma, cioè, no, non ci siamo. Papa comunista, vabbè. Andiamo avanti, chi dice qualcosa? Marco dice qualcosa. Di nuovo me? Ma sì, se no, se ti devi preparare. Allora, queste due notizie, parliamo della prima, perché tu me l'avevi cassata un po' di tempo fa, ma io voglio sapere se è vera, perché il Fatto Quotidiano qualche giorno fa, ad anno vecchio, il 22 dicembre, postava una bellissima notizia, spacciandola per attuale, in cui affermava che un 88enne si era presentato in un pronto soccorso con una bomba di 20 centimetri nel culo. Sì. Con un ordigno della prima guerra mondiale, quindi pensa da quant'è che stava lì. Esatto, cioè la domanda era: la notizia è vera? Da quanto tempo aveva la munizione nel culo? Gliel'hanno asportata? Hanno fatto a brillare con tutto il vecchio? Cioè, queste cose vorrei saperle. L'hanno portata a una cava di tufo a Roma Est e l'hanno fatto brillare, l'hanno suppongo. Fatto brillare insieme proprio a tutta la bocca. Mi sembra giusto. Ma non perché non volevo cliccare per dare click al Fatto Quotidiano, insomma. Cioè non... Tanto, ma pure se clicchi, cominciano a dirti: ma ti devi abbonare. Come? Accetta i cookie oppure rifiuta e abbonati. E paga. In realtà, se usate uBlock Origin potete bloccare tutti questi pop-up e gliela... Vabbè, lasciamo perdere, che se no facciamo informazione non proprio etica. Vabbè, e ragazzi, io vi volevo raccontare invece di stamattina. Leggevo un tweet del Poiana. Ci avete presente il Poiana, Andrea Pennacchi? Boh, non lo so. Non so che dirti. Dai. Ma è importante che non lo sappiamo? Beh, oddio, un minimo potrebbe essere utile sapere chi è il Poiana e chi è Andrea Pennacchi, perché insomma ha creato questo personaggio dell'imprenditore veneto, comunque del piccolo imprenditore che sta sempre a far finto leghista, quello che ce l'ha con i terroni, con i negri, ma poi ovviamente è uno stereotipo al contrario, perché chiaramente poi Pennacchi prende per il culo i veneti, no? Tutta questa cricca di piccoli imprenditori. Vabbè, comunque oggi tra l'altro apro e chiudo parentesi, perché dalla regia tecnica ci chiedono, questo è un messaggio per Francesco, di attivare il compressore di Skype perché proprio non ti si sente. Come cazzo si fa? Non lo so. Chiedi ad Alexa. Comunque, mentre che magari il Francesco prova a verificare. No, è un prova a fare no cazzo, non sta accettando. Insomma, Pennacchi scrive questo tweet. Non so se avete seguito avendo anche un'anima videoludica, sappiamo nostro malgrado chi è Ciccio Gamer, giusto? Sì, più o meno. Sì. Ok, Ciccio Gamer 89 l'altro giorno se n'è uscito con questa cosa che secondo lui è sbagliato avere più partiti. In Italia ci vorrebbe questa cosa, ci sono più di un partito, a lui non piace, non c'ha senso. Ci vorrebbe un solo partito che facesse gli interessi degli italiani, uno solo. Vabbè. Giusto, come negli anni 20, no? Sì, esatto. Ricordiamoci, Ciccio Gamer è quello che non sapeva che si dovessero pagare le tasse e ha evaso un milione di ricavato da YouTube, eccetera. Comunque, vabbè. Allora ci vorrebbe il partito della genuina ignoranza. Le tasse. C'è della genuina ignoranza, secondo me. Cioè, non fa neanche perché sì, è talmente stupido da essere genuino. Comunque, Poiana oggi. Oh, Mi ha dato la pizza! Oggi dicevo, ragazzi, no, a brioche in pace che avevo fatto, avevo buttato un cornetto in pace qualcosa del genere, sì. E dicevo, insomma, però Pennacchi scrive questo tweet. Ho capito quello lì. Ciao, ehi, Terrone, mi ricordo. Sì, bravo, vedi che sta arrivando. Sì. Lui scrive questo tweet in cui dice: mio padre doveva combattere i nazisti, io c'ho Ciccio Gamer. E già, capito. Solo che poi arriva il capiscione di turno che gli risponde: caro Andrea, se Wikipedia non tradisce, sei il 69 e io poco di più. Ai tempi dei nazisti, i miei beneamati genitori erano ancora dei ragazzini e forse anche i tuoi. E Pennacchi, lapidario, gli risponde: mio padre si è fatto il campo di concentramento, mio zio ha fatto saltare il ponte di Selvazzano, mio nonno ha ammazzato i tedeschi, vado avanti? E quindi, insomma, così. Tant'è che ovviamente Blastometro ha rilanciato la questione. Si è fatto il campo di prigionia, in che senso? Tutti se li è fatti, dai, Marco, su, è no, chiaro che... chiedi a Pennacchi, scrivigli tu, tanto ce l'hai Twitter, no? Quindi rispondi a questo tweet che ho linkato sulla chat diretta di Antenna Radio su Telegram e rispondigli: caro Poiana, caro Andrea Pennacchi, che vuol dire che te li sei fatti tutti? E nel frattempo, giustamente, dalla regia ci dicono che mentre ascoltate potreste fare un acquisto compulsivo, no? Se avete la carta di credito che vi spunta dalla tasca e non sapete cosa fare, potreste acquistare la felpa ufficiale della colorazione sgargiantissima di OGM Such Media Edition. E fareste del bene a voi, perché avreste un capo d'abbigliamento assolutamente esclusivo, anche perché sono in serie limitata, e fareste del bene a Runtime Radio, che con questa elargizione, con questo finanziamento, potrebbe fare OGM per altre puntate. Eh? Chi è caduto di colpo? Non è un bel incentivo. No, questo, No. Vabbè, allora incentivate voi, provate voi a vendere qualche maglietta, qualche felpa, su. Se non vi comprate una maglietta, vi viene il Poiana a casa. No, la butto lì. La butto così. Così. No, è abortito, cazzo, mancia. Niente. Tutti più, morti, così basta. Tutti morti. C'è più vabbè, non, diciamo che ecco. Bravo. Non siamo, come dire, bravi venditori di noi stessi, lo dobbiamo riconoscere. Figure di Randembre che se dovremmo. Ma dovremmo comprare noi, ma venditore nel senso che ci dobbiamo comprare magliette e poi dobbiamo andare in mezza strada a vendere la maglietta, come, in che senso? No, no, nel senso che chiunque comprasse una felpa dal nostro store Oplix contribuirebbe a sovvenzionare Runtime Radio, perché una parte, non tutta la cifra, un 20-30% dell'importo pagato ci viene riconosciuto dalla piattaforma. Quindi potremmo per esempio pagare il nostro abbonamento a Spreaker che utilizziamo tutti i mesi, potremmo pagare magari, che ne so, visto mai la musica di una qualità un po' più decente di Giamendo, perché sapete c'è questa piattaforma alternativa che l'anno scorso abbiamo usato per qualche mese approfittando di una promo, che è Epidemic Sound, che ci permette di avere musica libera da diritto d'autore, o meglio trasmissibile su licenza sulla nostra radio, che è decisamente migliore qualitativamente di quella di Giamendo, con tutto il rispetto, e insomma c'è un po' di monnezza varia. Vabbè, comunque si sa. Giustamente Simone dice: oh, io comunque, dice, lo ammetto, la felpa di OGM me la compro, perché dice costicchia un pochino, ma cavolo, una più bella, ma do cazzo la trovate. Tra l'altro Simone, sei riuscito a postare come Simone Pizzi, questa cosa è quasi commovente. Eh sì, gli ho risolto io stamattina. E com'era il problema? Siamo curiosi. Niente, anche che se lui praticamente, come tra i poteri da amministratore, si era dichiarato anonimo se stesso, dichiarandosi anonimo. Ecco. Okay, lui era Anonymous. Ok, lui era Anonymous, ok. Ho capito. Bene, bene. Vabbè, Marco. Già che è quasi ora di cena, no? Se volessimo andare a mangiare in qualche localetto, quale ci puoi consigliare? Allora, adesso scusate, ma devo spulciare. Fatemi spulciare, che adesso ci sono andato tutto quanto a puttane qui. Allora, c'è un bellissimo locale qui, ho trovato, che si chiama la Tana degli Amici. Sì, no? Sì, sì. Non ci sono mai stato, però. Io forse una volta. Non so nemmeno se c'è ancora, lo sai? Amici, perciò. Non sono sicuro ci sia ancora, Marco, però va bene. Ma non è importante. No, no, ci sono delle recensioni recenti. Ah, ok, allora va bene. Tipo questa, che ovviamente si mangia bene, si dice che si mangia bene. Ambiente molto informale, sembra più una trattoria. Pietanze buone, buonine, da rivedere qualcosa, come la sabbia nelle vongole. Anche no, grazie. Una stella. Mamma mia, mamma mia, cioè devi essere proprio stronzo. Mi ricorda una persona che forse l'ho citata più volte qui da noi quando parliamo di queste recensioni. Conoscete voi sodali di radio, avete anche gli ascoltatori. Ogni tanto parliamo di questi ristoranti di sushi in zona da noi. Questa volta non Ninja Sushi, come diceva Simone, ma in realtà il ristorante Kotuki, che è diciamo un giapponcino abbastanza di buon livello dalle nostre parti, una persona che conosco, vegana, recensisce, insomma ha scritto testualmente che il cibo era buono ma mette solo 2 stelle perché troppi pochi piatti vegani. Così sembra giusto. C'ha ragione. Vorrei capire cosa. Cioè, voglio dire, poi al ristorante cinese troppi pochi piatti vegani devi essere proprio. Cioè, che te devono dare, no, di più? È giusto. Anche 2 stelle gli ha dato. Dai, anche 2 stelle. Io vorrei soltanto farvi notare quest'altra recensione del vecchio forno. È sempre una cosa del posto. Cioè, sì. È un forno. C'è andato anche Franchino il criminale al vecchio forno. Abbiamo la testimonianza di un esperto. Come? Scusa? C'è andato anche Franchino il criminale al vecchio forno. Ma no, questo è una recensione fantastica che dice: pizza e pane al top. Cioè, perché comunque è rinomato. Personale gentile, tutto genuino. Faccine coi cuoricini, pizzette, emoticon di pizzette, cornetti, ciambelle, wurstel, non si sa. 1 stella. Okay. Ma probabilmente in questi casi gli è scappato il selettore. Cioè, secondo me questi sono errori involontari di cui non si sono manco accorti. Scusate, un colpo di tosse. E vabbè, sarebbe meritata perché giustamente. Sempre sul vecchio forno, perché ovviamente c'è. Purtroppo è chiuso nelle ore centrali. Apre come i negozi ed è chiuso proprio dalle 13 alle 17. 1 stella. Mi sembra giusto, perché tu nelle ore centrali non puoi chiudere. è una cosa ingiusta. Tu puoi essere anche il più bravo, il più bello, il più buono dell'universo, ma se chiudi le ore centrali ti meriti una stella. Mi vabbè, diciamo che se la tua attività, anche se non prevalentemente, in buona parte anche pizzeria da sport, e chiudi all'ora di pranzo, la critica ci sta, mettiamola così. Poi è uno forno più che una pizzeria, però diciamo che non mi sento di biasimarla al 100%, però sì, una stella è esagerazione. Allora, recensioni dell'officina, sempre dei nostri posti, perché è bello fare. Va bene, facciamo le attività locali, così poi ci vengono a dare fuoco agli studi. Esatto, sanno dove sapete dove trovarci. Allora, ci sono le mosche, pessimo locale, Red Spritz assente per mancanza di cocomero, ne manco giusto. Red Spritz assente per mancanza di cocomero. Gli ha risposto il proprietario: scusami, ma se trovassi il cocomero in questo periodo dovresti preoccuparti seriamente. Questo è stato fatto tipo a novembre. Però le mosche purtroppo ci sono, ma il cambiamento climatico non dipende da noi, no? Non è ancora cambiato. Insomma, no. Probabilmente in realtà dipende da noi, però sì, infatti. No, non da noi come gestori del locale, dico. Ah, ok. No, ma però questo Red Spritz col cocomero, cioè, che sono curioso. Ma lo spritz, sapere? Cioè, ma cioè, conosco forse quello Aperol, conosco quello Campari, conosco quella ricetta con lo Red standard originale, ma c'ha Red. Appunto. E poi il cocomero alla fine non è manga, è più viola che rosso, perciò non lo so che cos'è. Vabbè, comunque. Ci sono stato andiamo a volte provato, all'officina, no, devo dire. Ci andiamo apposta. Ma ho una voglia irrefrenabile di Red Spritz al cocomero. Mannaggia a te, Marco. Mo' devo uscire. Però tra novembre e dicembre bisogna andarci, perché sennò non è giusto. E vabbè, torno indietro nel tempo, faccio prima rispetto ad aspettare. C'è il famoso cocomero novello che esce soltanto in inverno, ci si fa la granita. Ah, vabbè. Ragazzi, non so, Francesco, tu hai... No, io voglio sapere, ma Pillon sta continuando a fuoco critico d'arte, oppure capite che... Guarda, questa settimana sarà stato in vacanza, perché sai, il Santo Natale lui l'ha vissuto con un certo trasporto, quindi io facendosi tanti di quei rasponi sul presepe, volevo. Soprattutto durante la... Me l'immagino soprattutto durante l'Epifania, quando finalmente fa arrivare i re magi, e per tradizione uno è nero così a caso, però è tutta roba apocrifa, e lui lo guarda e si fa tante di quelle fantasie, poverino piccolo. E fa bene, però poi deve sfogare tutto il suo contrastare questa sua natura su Twitter, su altra cosa. Questo è male. Meno male che fuori dal Parlamento, almeno lui, dai. Infatti adesso per vivere cosa fai nella vita? Querelo. L'ipotesi di Simone che è fondata, solo che fino a mo' è stato lui a dover dare soldi a gente in giro per risarcimento, per diffamazione. Che bad one. Ma invece, ragazzi, a proposito, si prende. Per chiudere perlomeno la parte Twitter della serata, avete visto alla fine ieri quando è successo il casino in Brasile, tutti stavano aspettando che il nostro governo prendesse posizione ufficialmente. E per ore e ore il silenzio. Ma come? Quando imbrattano la parete di Palazzo Madama con una vernice pure lavabile con l'acqua, pareva che avessero fatto chissà quale vilipendio delle istituzioni, chissà quale assalto alla democrazia, chissà quale sfregio. Adesso che c'è un vero tentativo di golpe in atto, tutti tacciono. Il primo, vabbè, che in maniera un po' timida ha detto qualcosa, è stato Tajani. Ma oggi è stato molto divertente che alla fine la Meloni qualcosa ha dovuto... Salvini zitto, si è andato a nascondere, non ha aperto bocca, perché ovviamente aveva espresso una certa amicizia nei confronti di Bolsonaro, quindi adesso proprio zitto e muto. Ha scritto poi qualcosa? Salvini? Non lo so, no. Però la Meloni, no, ovviamente sì. Presidente del Consiglio, non poteva... Ho da recuperare nel frattempo, vai. Vai, allora io intanto leggo il tweet della Meloni, o perlomeno dello staff della Meloni, che dice: quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dell'irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico. È urgente un ritorno alla normalità ed esprimiamo solidarietà alle istituzioni brasiliane. Ora, non è riuscita, a non nominare Lula, a non nominare Bolsonaro, a parafrasare il concetto di democrazia con quello di dissenso democratico, cioè veramente una cosa di uno squallido, tant'è che un utente su Twitter ha fatto una bella analisi che adesso vi metto in chat, perché secondo me è giusto condividere, è giusto anche riconoscergliene la sostanza, e c'è questo thread piuttosto lungo che va ad analizzare il post della Meloni. Questo Mattia Guidi dice: interessante da analizzare ciò che il Presidente del Consiglio riesce a non scrivere in questo messaggio, infatti, diciamo, ed estende il concetto che in parte avevo già detto, cioè uno, non si dà un nome, si parla genericamente di violenza, assalto, tentato golpe alle azioni dei bolsonaristi. Tutto ciò diventa quanto accade in Brasile, così generico. Cosa sta accadendo in Brasile? Se non lo sai, resti sul vago. Non si dice mai che è inaccettabile la violenza. No, nel furore eufemistico del suo non dire, ad essere inaccettabili sono le immagini. Quindi non l'atto in sé, ma l'immagine dell'atto. La definizione di irruzione nelle sedi istituzionali, per quella roba lì, è proprio un'indulgenza, non dice una carezza, perché ovviamente è successo qualcosa di molto più grave, tentativo di golpe. Invece di dire che tutto ciò è incompatibile con la democrazia, suonava troppo diretto, preferisce dire che è incompatibile con qualsiasi forma di dissenso democratico, che non significa un cazzo, ma ovviamente offusca il messaggio quanto basta. Ancora, non si esprime solidarietà al presidente Lula. No, meglio esprimere genericamente alle istituzioni brasiliane, chi coglio coglio. Ricordiamo che, e qui c'è poi ovviamente il rimando, che invece al contrario la Meloni 3 anni fa apostrofava Zingaretti dicendo, apostrofava Lula dicendo in un tweet, per esempio: Zingaretti incontra l'ex presidente del Brasile da poco uscito di galera per una condanna per corruzione e riciclaggio, lo stesso che negò l'estradizione a Cesare Battisti offendendo l'Italia e le famiglie delle vittime. Ma PD e governo non si vergognano di questo affronto all'Italia, perché poi ricordiamoci, no, che se legarono al dito sta cosa dei Battisti. E dulcis in fundo nell'analisi di Mattia Guidi, non dice che gli assalitori sono sostenitori di Bolsonaro, la cui vittoria 4 anni fa era salutata da Meloni rivendicandola, allora sì, alla destra che vinceva in Brasile. Ultima chicca, ciliegina sulla torta, attenzione, nel messaggio non figura neanche la parola condanna, neanche la preoccupazione, il concern dell'Unione Europea che spesso prendiamo in giro, ma no, semplicemente un neutro non può lasciarci indifferenti. Ecco, questa è la fredda analisi della persona che ci governa da qualche mese a questa parte. No, è un'analisi di parte questa, no, che schifo, no, ma voglio... assolutamente di parte, comunista di merda. Comunque, no, niente di che. Scusa, Salvini ha semplicemente detto basta la violenza in Brasile come ovunque. Sì, sì, ancora più laconico nel non dire un cazzo rispetto a Giorgia Meloni, vabbè. Non bisogna mai dire niente. Comunque io stenderei un velo pietoso, ma vi porterei a conoscenza, se non lo conoscete, un gioco competitivo in cui bisogna conquistare delle nazioni con dei carri armatini, dei dadi. Conoscete? Ah, la guerra in Ucraina. No, diversi stati, non solo uno, diversi stati in tutto il mondo, ci sono degli obiettivi: conquistare nazioni, conquistare, distruggere. C'è anche Kamchatka, tipo. Come si chiama? Esatto, c'è anche quello. Come si chiama? Risi? Dovrebbe essere il risico, detta così, ma. Il risico, esatto. C'è questo, lo conoscete, no? Per sentito dire, certo. È un gioco nuovo? Sì. Allora, è un gioco nuovo questo che vi sto postando, preso da Amazon. Che è Risico Napoli. Ora potrebbe essere divertente, però diciamo, io sono andato a leggere la descrizione. Risico Napoli è il gioco di strategia che conoscete e amate, ma in un'edizione originale diversa, ambientata nella città di Napoli. Cioè, bisogna conquistare le piazze di spaccio. aspetta, include carte, territori e carte, obiettivi che si ispirano alla storica rivalità tra i quartieri della città italiana. Ok, va bene. Scusa, andiamo avanti. Scusa, Francesca, quale sarebbe questa rivalità tra i quartieri? Cioè... Non lo so, potremmo chiedere alla persona che diciamo che ci è più vissuta vicino, non dentro, ma non so se ne ha conoscenza, perché potrebbe non essere a conoscenza, e c'è Puccio, ma non c'è, purtroppo non posso. Beh, in realtà se proprio dovessi dire quello che ci ha vissuto, o per vissuto comunque quello che ci ha avuto aderenze maggiori, Homer, tecnicamente saremmo stati. A parte Francesco, che ovviamente è indigeno, però insomma c'ho una certa vicinanza con la città. Indigeno lo dice a tua sorella. Per un decennio, e posso dire che c'è questa rivalità tra i quartieri. È più forte la rivalità tra Montelondo e Mentana. Cioè, forse è un cenno storico che mi manca. Non lo so. Ma avessi detto Salerno contro Napoli, già. Già qualcosa. Ma tra quartieri. Avellina. Ma avessi detto tra famiglie. Allora sì, che ne so, ma sarebbe da chiedere editrice giochi, no, perché da curiosità, ma invece di carri armati, che ci stanno i carri? No, ci sono i carri armati, è quella la cosa che... Cioè, non non c'è stato tre ruote. Include carte territori raffiguranti gli iconici quartieri di Napoli e carte obiettivi ispirate alla storica rivalità tra... Ma perché? Beh, però, ma poi, no, vabbè, ragazzi, ma ti rendi conto che cioè, è creata ad hoc la rivalità. Ma poi la strategia è che se salgo sui camaldoli con i carri armati, ho vinto, sparo verso il basso. Cazzarola, cioè, il punto più alto, vinci. No, vabbè, sto gioco non c'ha senso. Lo trovo storicamente completamente inattendibile, culturalmente inattendibile, e anche un po'. Ma vediamo un po' di recensioni, raga. Un po' razzista. Poi il risico con la mappa di Napoli, bellissimo, sarebbe stato più intrigante e mitico se al posto dei classici carri armati avessero messo delle macchine o tre ruote oppure motorini con gente senza casco, altro che videogiochi. Eccolo, questo si spinge contro, ovviamente, perché cioè quale occasione più pregna per andare contro i videogiochi di un argomento a caso. Hai letta questa domanda? Buongiorno, per caso della versione Napoli forniscono anche passamontagna, pistole Rolex? Mi sembra qualunquista come domanda. Napoli è piena di gente per bene e questi stereotipi sono ridicoli, a mio avviso. Vaffanculo. Ci hanno fatto solo un gioco da tavolo. Cioè da risico a rosico, praticamente. Cioè. Vabbè. No, non lo fa. Uno risponde: io nella scatola ho trovato due passate montagne nere e tre Rolex, ma niente pistole. Niente pistole. I territori sono divisi in base. Aspettate, mi sei bloccato. I territori sono divisi in base a territori della famiglia dei clan. Salve, grazie per la domanda. Carta territorio raffigurante i quartieri iconici di Napoli e carta obiettivi ispirata alla storica rivalità tra i quartieri in questa famosa città italiana. Comunque, diciamo la verità. Fa sempre riferimento ai territori di Game of Thrones. Francesco, diciamo la verità. L'unico luogo dove poter acquistare questa scatola in serie limitata è l'autogrill di Sala Consilina. Ah, sala. Poi dentro ci trovate un mattone, ma so dettagli. C'è anche questa domanda, ragazzi. Nella versione Risico Napoli c'è via Brom Base? Chiedo per un amico. Non ha acquistato no. Perché recensione divertente, simpatica, ben fatto. No, versione Napoli, l'edizione con ottima qualità prezzo, regalo molto gradito, no, niente. Non ci sono Comunque, ragazzi, sto per mettere nella nostra chat di Lettere Antenne Radio una testimonianza del fatto che mi riaggancio al contesto per dire che non c'è più religione, ragazzi, il mondo è alla rovescia. Se la volete leggere, perché io non ho il coraggio, così anche chi non sta in chat ascoltando il podcast lo saprà. Allora, coppia di turisti tedeschi ruba il portafoglio napoletano sulla discapo per capi. Ragazzi, non c'è, ormai questa società ha sradicato tutte le certezze che uno aveva nella vita, tutte. Cioè, non c'è più religione. Che fatica a vivere. Vabbè, non pensiamoci, ragazzi, dai, andiamo oltre. Oramai si sa che sono quelli là che ci soffrono di più da del gas, eccetera, eccetera. Quindi si stanno rifacendo su chi, diciamo, ha per il momento ha risolto, diciamo così. È l'unica spiegazione che mi do. Cioè. Ma infatti, una rivalsa, dice. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Dai, Francesco, hai qualcosa? Ma chiudiamo tutto. No, ma mi è arrivata sta cosa qua. Credo che questa foto chiuda ogni questione sulle sanzioni over 50. No, MS ha cancellato. No, no, l'ha ripostato. Aspetta. Ma cosa bella che se vedi che sti gruppi stanno sempre azzeccati. Quindi in continuazione tu vedi che in tempo reale te cancellano, te modificano, te bloccano le cose. È una roba. Questo praticamente ha messo un aspetta, lo devo solo inoltrare praticamente il numero documento, praticamente uno screen del sito dell'agenzia delle entrate, sarà qui dice che carissimi amici, questa foto mostra quanto risultato al sito agenzia delle entrate riscossione relativamente ad una cartella esattoriale di una sanzione per mancata vaccinazione over 50. Nella colonna importo da pagare, la penultima da sinistra risulta 0,00, nell'ultima colonna la voce sospensione risulta sì, la cartella era stata notificata come risultato dalla quarta colonna da sinistra il 2 dicembre 2020, quindi ancora prima che il decreto che concede le sanzioni fino al 30 giugno 2023 fosse stato approvato anche solo dal Senato. Questo credo chiude definitivamente la questione sulla retroattività del congelamento delle sanzioni, che quindi è provato, me ne direi inequivocabile e sascia tutti gli effetti. Questo nonostante comunque uno che sta dimostrando che sta gente che non si è vaccinata, sta scampata, ha campato, ha campicchiato fin quanto ha potuto e l'ha avuta vinta. È arrivato il governo e ha detto: ma sì, ma da cerca. È un'altra sconfitta per l'umanità. Ragazzi, ci dobbiamo proprio adeguare, ci dobbiamo rassegnare ad una società che proprio non, io non la capisco veramente più, ho perso tutti i punti di riferimento, sono costernato, sono stanco, triste e, boh, vabbè, così è. Marco, oh, c'hai qualcosa da proporci prima di salutarci? Francesco, hai qualcosa da proporci? Allora, ho due o tre cosine, ma me le vorrei tenere per la prossima volta, perché c'ho una notizia di cui vorrei discutere. 3-4 punti ci vogliono, dai. Vabbè, allora conserviamocela per la prossima volta. Questa, vista la formazione ridotta, ci può anche stare che sia una puntata un po' più breve del solito, anche perché insomma, i contenuti vanno ripartiti tra i vari canali, tra il lavoro redazionale di tutti. Oggi non abbiamo il nostro amato Cuora, non abbiamo poi tra l'altro mi spiace che non c'è Simone, perché avremmo potuto degnamente celebrare il coccodrillo di Gianluca Vialli, che nel suo bel gesto di venire meno ci ha mancato di rispetto non venendo meno durante la diretta, però ormai siamo abituati. Però non lo fanno mai. E infatti non lo fanno mai. Poi avrei anche... Il giorno lo farà Shatner in diretta. Mamma mia, lì ragazzi facciamo il botto. Però devo dire che una cosa che su cui avrei voluto riflettere, se ci fosse stato Simone, perché il tema comunque è abbastanza collateralmente calcistico, diciamo così. Però questa riflessione io la butto lì. E Mihajlovic, Vialli, cosa hanno in comune? Che nei primi anni 90 hanno giocato nella Sampdoria. Io, beh, due casi non fanno una statistica, però diciamo, tanto per alimentare il complottismo, se io fossi un giocatore della Sampdoria di quegli anni lì, quantomeno una grattatina dei coglioni me la darei. E detto questo... che fa anche molto FIFA, quindi ci sta. Vabbè ragazzi... Inutile dire che si è fatta una certa, un po' meno certa di altre volte, ma va bene così. Perciò, nel salutarvi, ringrazio e saluto i sodali di questa sera, a cominciare dal nostro Francesco Lobifrontali di Mura. Dai, speriamo che la prossima volta saremo più in compagnia, con meno colera, meno impegni, meno roba, squadra al completo, dai, che più siamo meglio o peggio, diciamo meglio insieme o peggio. E con più compressore da quello che dice Simone, vabbè, ma va bene lo stesso. E poi saluto il nostro Marco Gualdi. Ciao, alla prossima, e mandatemi le recensioni che trovate, anche le vostre, se volete. Fotopiedini. Va bene, ringrazio anche chi ci ha fatto compagnia questa sera. Ci sono stati dei timidi collegati, perché insomma so che qualcuno era lì che ci ascoltava. Sicuramente uno era il nostro prode Simone. Vi ringrazio, vi do appuntamento per quanto mi riguarda alle orazioni della sera, domani, mercoledì e giovedì dalle 20. OGM Such Media Edition tornerà in formazione completa, ci auguriamo, lunedì prossimo. E poi vi ricordo insomma tutti i vasti appuntamenti con i programmi di Runtime Radio. Domani ci sarò io, mercoledì mattina ci sarà invece alle 7 il nostro Leo Vargion con il libro Game. E poi insomma di volta in volta, seguendo la nostra chat diretta da Antenna Radio, il nostro canale broadcast con il bot Nuovo Fiammante, verrete informati di tutta la nostra programmazione. A questo punto, ciao! Ciao.